quasi l'impazzimento di segnali morse che vanno a ricercare. Sì, forse una presenza che a questo punto sì, si vorrebbe magari anche fisica, forse come è fisica è buona parte della musica di Hatao Tanaka, che è dentro un progetto uscito qualche anno fa sul Dedicated to Cree Marker, proprio al grande cineasta, artista visivo, ma tutti i sensi, anche in termini fotografici e anche in termini multimediali, visto che poi abbiamo anche sentito una sua sperimentazione radiofonica da parte di Arte Radio e, in Svizzera, fatta nel 2003. Quindi è un artista da tutto tondo, un po' come anche Hatao Tanaka, e non è un caso, insomma, che partecipa decisamente al progetto, insomma, di dedica a Cree Marker di qualche anno fa, che abbiamo ancora in sottofondo, e apre proprio questo lavoro, e tra l'altro cura anche le copie per quanto riguarda i lavori di stampa, di produzione, quindi dentro proprio il meccanismo anche così di diffusione di fatto, e anche proprio le scritte, quelle che compaiono, insomma, all'interno del CD. Non credo che esista il vinile, ma non esiste, e sì, quindi tutte le copie, insomma, vengono, insomma, trattate direttamente da Hatao Tanaka, un po' come fa nel suo discorso riproduttivo, sì, fantasmatico in questo senso, forse tutta la progettualità che si va a instaurare dentro il lavoro di Hatao Tanaka si fa fantasmagorica nel momento in cui crea ad esempio abbiamo sentito qua quasi un messaggio morse che potrebbe ricordare, e per tanti versi lo fa, La Jetée, proprio il film di Marquet, quando sonoricamente dà quell'immagine, quasi la precede. Poi, appunto, a livello visivo abbiamo questa immagine anche piuttosto potente, però l'immagine sonora quasi precede quella poi, appunto, fisica, visiva, di fatto come la conosciamo. E anche il lavoro di Hatao Tanaka, il suono anticipa quasi la performance globale, multimediale che ha fatto di Tanaka, insomma, un personaggio anche piuttosto cercato e ricercato dentro gallerie e appunto artista multimediale, che ha curato sia il suono che la visione, in questo senso il fantasma sonoro che è sempre stato dentro le sue opere, appunto totali, chiamiamole così, globali, multimediali, va a tanto impattare con quell'elemento anche gestuale, performativo, appunto, come accennavo prima, tanto a quel rimando, insomma, a un'opera addirittura successiva, in questo senso è sempre in divenire, forse anche in questo senso dentro quella poetica eccezionale di Cree Marker, del lasciare questa opera aperta, incompiuta, perché venga compiuta poi da altri esperimenti, non soltanto suoi ma anche visivi. Forse in questo senso c'è anche tutto un lato esperienziale, si può appunto sperimentare di fatto vedendo il cinema di Cree Marker, con tutto quello che comporta: suoni, rimandi visivi, immagini quasi impossibili da vedere per quanto saturate. Se ad esempio pensiamo a Sans le Soleil, film che usa anche la computer graphic, siamo intorno alla fine degli anni 70, primi anni 80, e Tanau Atau Tanaka, come Oran Ambarci, forse da sempre attratto da atmosfere fantasmatiche, da una sorta di musica che si fa sempre o quasi sempre evocativa in Oran Ambarci, anche lui dentro il progetto CD di Soul Dedicated to Krimar Kerr, con un pezzo magari che va meno a cercare quell'aspetto fantasmatico che abbiamo appunto ascoltato con queste sorte di linguaggio morse così perso nello spazio, forse ritrovato in un altrove. E con Oran Ambarci invece si va più su quel evocativo e quel mondo così poetico decisamente evocato da Krimar Kerr anche in alcuni passaggi assolutamente emozionanti. Non è un cinema che è cerebrale, anzi tutt'altro quello di Krimar Kerr, e come d'altronde appunto così la dedica personale di Oran Ambarci che ci riporta appunto a una emotività, un sentimento piuttosto forte per quanto diretto in tutti i sensi da Krimar Kerr. Oran Ambarci appunto da Dedicated to Krimar Kerr. Beh, forse la più famosa, mettiamola così, insomma, seppur un'hidden track straordinaria della generazione digitale, come dicevamo prima, insomma, saremmo entrati negli anni 90, rispetto appunto alle ghost track, hidden track, tracce nascoste. Questa forse è una delle più ricordate, ovvero Autechre da EP7, insomma, non ha bisogno di presentazioni, non credo né qua 451 frammenti sonori, né da parte di buona parte dei radioascoltatori che seguono questa trasmissione, non solo, insomma, Autechre, una delle formazioni più importanti degli anni 90 fino all'ambire, insomma, gli anni zero, con dischi decisamente importanti, forse appunto un punto di riferimento per la digitalizzazione del suono, anche quella estrema. Qua abbiamo sentito appunto l'hidden track da EP7, ovvero se prendete il CD originale, o insomma una copia, ma presa chiaramente dall'originale, e portate indietro lo skip fino a 9 minuti e 47 secondi, dovete essere precisi però, perché sennò vi parte la prima traccia, come traccia zero vi parte questo suono assolutamente sintetico, nella maniera veramente più digitale si può pensare. Autechre hanno portato la digitalizzazione a un estremo molto molto sperimentale, non chiuso come qualcuno ha voluto considerare da Confield in poi. In realtà quello è un grande approdo di digitalizzazione estrema da parte di Autechre, che appunto con estrema portano fuori, portano anche a nuove possibilità date da digitalizzazioni che vanno a impattare ovviamente con linguaggi nuovi, linguaggi aperti, in questo senso la ghost track, la hidden track, chiamatela insomma un po' come volete, di fatto insomma la traccia nascosta, la sottotraccia, che poi insomma è la tematica di questa serie di 451, va a cercare un altrove, forse partendo già da quell'altrove, e poi crea insomma una serie anche qua, forse citando anche le copie prima, e quindi questo fatto di riprodurre in maniera infinita, fantasmatica, fantasmagorica, anche prima lo dicevamo con Tanaka, col suo lavoro quasi di linguaggio in lontananza, questo quasi suono morse che si andava a perdere, ma si andava a perdere appunto per rintracciarsi poi probabilmente in un altrove musicale, sonoro, dato dalle sperimentazioni e da quella voglia, da quel senso anche vitalistico che si vuol dare a un suono, sì, che parte sicuramente da un discorso che potrebbe sembrare assai freddo, quello della digitalizzazione delle macchine, sia per Tanaka, non tanto per Ambarci, perché abbiamo sentito insomma sicuramente un mondo più evocativo, se vogliamo più armonioso, con tutte le virgolette che ci vuole, sia con Tanaka però che con Autechre si va verso invece una digitalizzazione che evidentemente si fa altro a livello sonoro, che parte appunto da un linguaggio della macchina, ma che attraverso l'utilizzo sintetico poi del linguaggio digitale va evidentemente, dicevo prima appunto, a creare un altrove sonoro, come un altrove sonoro e a livello anche immaginativo va a creare Eric Zann, prendendo un disco di qualche anno fa, un disco assolutamente fantasma, tratto tra l'altro la Ghost Box, anche questo accennavo all'inizio di trasmissione, che saremmo arrivati insomma probabilmente all'etichetta principe dei fantasmi sonori, delle vocazioni, Ghost Box, che con Bad Moody Poli, Focus Group, che tra l'altro è uscito anche con un disco nuovo che nelle prossime trasmissioni di 451 non mancherà assolutamente, Eric Zan invece, un CDR che usciva qualche anno fa, perso dentro le prime produzioni di Ghost Box, ma non per questo meno eccezionale, forse a livello poetico, tematico, va proprio a sancire un lavoro eccezionale di Ghost Box, proprio su un continuo copiare, ricopiare anche in questo senso, e quindi rievocare continuamente mondi, immagini dal passato che però poi assolutamente sfocate ci vanno invece così a proprio a portare, a trascinare di fatto fuori, quindi in questo senso estreme come immaginario, non soltanto visivo, anche se appunto Ghost Box lavora anche molto su questo, anche la copertina di questo Obor Indra, titolo indecifrabile per lingue immaginifiche, appunto di Eric Zan, ci porta con questa immagine, quest'occhio dentro questa sorta di occhio che viene poi ripreso, insomma ingrandito, e quindi anche in questo senso riprodotto quasi una sorta di infinità di giochi di specchi, forse visivi, sonori, che rimandano tanto al passato ma anche quanto appunto a un altrove, quindi anche disintegrando volendo quello che è il concetto di tempo, che poi è tutta la tematica di Ghost Box, di Bad Moody Poli, di Focus Group e delle progettualità che ad esempio ultimamente vedono anche un John Fox, anche gli forse fantasma sonoro di quell'altro regista, tra l'altro, che ha lavorato anche egli su immagini fantasmatiche, come Antonioni degli anni Ottanta, quindi quello sonorizzato poi da John Fox, Identificazione di una donna, forse il film che più ha rimandi di Antonioni, che più è elusivo in questo senso, insomma fantasmatico, ma comunque non ascoltiamo John Fox, seppur anche dentro i lavori di Eric Zan, dentro questo lavoro Obor Indra sicuramente c'è anche una sorta di ombra, di riecheggiamento anche di certe atmosfere sospese elettroniche di John Fox. Andiamo a prendere proprio il pezzo che dava il titolo a questa misconosciuta opera appunto di Zan, tra le primissime uscite CDR, quindi di fatto fantasmatiche, di Ghost Box. Thank you. Tonight, our psychedelic sounds nightclub is hosting a formal affair. White jacket only, please. The band is called Lobotomy and the Shock Treatment. Aren't they interesting? L'altro incredibile, forse incredibilissimo mondo di William Castle, uno dei personaggi che sono dentro l'immaginario, come un po' giocavo prima con questi specchi che riflettono immagini su immagini, quindi dando questa idea di infinità, no? Di poi sfocamento anche, perché dopodiché insomma si perde la focalizzazione di un'immagine, diventa un'immagine multipla, un po' come appunto l'aspetto fantasmatico, fantasmagorico delle musiche di Ghost Box, quindi di Rick Zan ascoltato prima, ma con quel riferimento inevitabile a uno dei più grandi creatori di immaginari, di fantasmi, di ghost vision, come William Castle, regista americano, tra forse i più seguiti nell'ambito della B-movie, del recupero di pellicole, tra l'impossibilità di vedere certe cose anche per appunto una reperibilità materiale, ma anche proprio per una sorta di carenza di mezzi, quindi di evocazione che per forza dovevano fare come lavoro registi come William Castle, fantasmi che potevano soltanto essere evocati, non di fatto da effetti speciali come tanti insomma hanno potuto poi fare con un budget ben superiore appunto a quello di William Castle o di altri registi legati insomma al drive-in, all'exploitation o al B-movie, a un cinema anche che volutamente insomma è sempre stato all'atere, è sempre stato un po' come dire fantasma del cinema mainstream, che ogni tanto poi è comparso, si è fatto da ectoplasma poi cinema di fatto, se pensiamo che William Castle per un attimo non ha avuto la possibilità di girare Rosemary Baby, che tra l'altro produsse sotto la regia appunto del grande Roman Polanski, film che parla se non di fantasmi sicuramente di situazioni estreme portate appunto verso un altrove sia visivo che immaginario, immaginifico in generale, come d'altronde tutto poi il mondo evocativo di William Castle, non tanto appunto in termini effettistici ma proprio in termini di rimando, anche qua a un gioco di copia, ricopia, poi anche fattuale, perché insomma c'era una sorta di copia del cinema horror mainstream degli anni 50 che veniva ripreso, copiato, ricopiato e quindi poi sfocato di fatto, reso fantasma da registi come William Castle, che lo ricordiamo ad esempio con il suo The Tingler, il mostro di sangue in italiano, forse uno dei titoli più cult, a parte appunto questa produzione fantasmatica di Rosemary Baby e questa regia forse fantasmatica anche di William Castle dentro quel grande capolavoro appunto che poi andò nelle mani di Roman Polanski, seppur appunto con la produzione di William Castle, che sta dentro il mondo di Ghost Box, come forse, non so, potrebbe essere quello di Deleuze per la Mi Plateau o di William Burroughs per l'Industrial Record, insomma facendo insomma un po' di paragoni più o meno azzardati, ma non tanto, poi visto che poi il mondo visivo di Castle è di fatto sonorizzato in tante opere di Ghost Box, come quella di Moon Wiring Club, anche qua con questo immaginario sonoro che va a pescare appunto da strane vibrazioni B-movie e forse anche bisonore, a questo punto potremmo anche così considerarli tali, Moon Wiring Club, anche qua una sorta di fantasma dentro già la scatola dei fantasmi appunto della Ghost Box. Yes. Club, questo clubaggio lunare, questo club del cablaggio appunto e del satellite, insomma, della Terra, appunto della Luna, con un'operazione dentro Ghost Box, un'operazione che è una comparsa, appunto una di partita che non si capisce bene dove sia andata a parare, forse su un altrove sonoro, insomma, sempre cercato dentro Ghost Box, di fatto con Today Bread e Tomorrow Secrets, anche titolo assai evocativo. Moon Wiring Club spariscono, appunto una sorta di apparizione nel vero senso della parola, sonora, discografica, dentro la scatola dei fantasmi, la Ghost Box. Come forse loro, anche Mon Vernon e Arts Lab, anch'essi formazione assolutamente fantasma, tra apparizioni e scomparse, momenti in cui tornano con progetti paralleli, forse alla denominazione più famosa, ma si sta parlando di una fama sempre molto relativa, sempre molto ectoplasmica a questo punto, quella di Mon Vernon Arts Lab. Ci andiamo a prendere con Mon Vernon Astral Temple, appunto un parallelismo e un'apparizione della formazione forse madre del progetto matrice Mon Vernon Arts Lab, forse, perché forse invece il fantasma, appunto, Mon Vernon Astral Temple è in realtà la formazione più importante, chissà, in questo gioco di specchi, di rimandi, di copie, ricopie, no? Che abbiamo fatto questa sera qua a 451, probabilmente l'effetto apparente, quello che prende il sopravvento. 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, quindi vi lascia così un'apparizione e una scomparsa non proprio immediata, visto che siamo stati insieme quasi un paio di ore. Vi rimando a mercoledì prossimo alle 24 per un'altra esplorazione nei regni dell'indefinibile, dell'indefinito soprattutto. A parte gli scherzi, vi saluto, fate i bravi e vi lascio appunto con Mon Vernon Astral Temple, da loro musica che poi va anch'essa a rendersi fantasma, visto che Music That Destroy Itself, quindi la musica, proprio quella musica che distrugge se stessa, di conseguenza, insomma, non può che essere un'apparizione, forse un'apparizione anche effimera, da tra l'altro il bonus disc che c'è, non c'è, dentro questo Music That Destroy Itself, dipende poi da quale edizione andate a trovare, sia sulla rete che fisicamente, quindi un fantasma dei fantasmi, insomma, tanto per continuare questo gioco dell'assurdo. E io con questo gioco dell'assurdo a questo punto vi devo veramente lasciare. Max Macchia vi saluta e vi ridà appuntamento a mercoledì prossimo.